È probabile che sia così, ma che sia proprio veramente così, beh, questo nessuno l'ha visto. Un sacco di domande a cui dare una risposta. Grazie davvero a Mario Tozzi per essere stato con noi in questa prima puntata di Terra in Vista. Ciao Mario. Ciao, presto. Grazie a voi, ciao, arrivederci. È il momento adesso di Telmo Pievani, il filosofo della scienza, l'evoluzionista, e i suoi racconti, le sue storie, il terremoto, dove ci accompagna. Beh, dunque, noi non siamo ancora andati al centro della Terra, però, guarda, da 60 millenni almeno non la smettiamo di girare sulla Terra, sulla superficie terrestre. Siamo una specie mobile che ha imparato ad adattarsi praticamente a qualsiasi ambiente. Pensa che di recente hanno scoperto che già 45 millenni fa c'erano degli esseri umani al Polo Nord che cacciavano indisturbati i mammut. Ci siamo riusciti con la cultura, la tecnologia, palafitte, iglu, indumenti, le scarpe, le lance, eccetera, eccetera, e con l'organizzazione sociale. Però, se ci pensi, questa adattabilità umana ci ha portato a pensare che la Terra fosse a nostra disposizione. E invece il terremoto è proprio quel fenomeno che, insieme con le eruzioni vulcaniche, le inondazioni, ti fa capire una cosa fondamentale, che la Terra è molto più antica di noi e ha le sue regole, e spesso è pericolosa, è imprevedibile. Il terremoto, abbiamo appena sentito, è imprevedibile e molto veloce. Pensa che oggi, proprio per questo, alcuni scienziati hanno detto che bisogna inventare una nuova etica, cioè un nuovo tipo di comportamento giusto, non nei confronti degli esseri umani, non soltanto, ma nei confronti della Terra. L'hanno chiamata geoetica, quella cultura di cui parlava prima Mario Tozzi, che ci manca è proprio questa, una geoetica, imparare a essere più etici nei confronti del pianeta, della casa che ci ospita. Un grazie come sempre a Telmo Pievani, un grazie a Paolo Corleoni per la parte tecnica, un grazie a Paolo Manduca che con noi ha scritto la puntata. L'appuntamento è a domani con una nuova parola per narrare, raccontare questo 2016, ma chiudiamo con una sorpresa, perché al termine di ogni puntata questa parola ha ispirato una poesia, una filastrocca, un grande maestro della letteratura per l'infanzia italiano. Sto parlando di Bruno Tognolini. Oggi, da Rime Raminghe, ci leggerà con la sua voce Rima della terra che balla. Oggi non piove, la terra non si muove, vola farfalla, la terra oggi non balla. Ieri pioveva, la terra si muoveva, sabbia di mare, casa mia non sa ballare, resta ferma e cade giù, casa mia non ce l'ho più. Ma oggi non piove, facciamo case nuove, case farfalla, gentili le vorrei, che se la terra balla, loro ballano con lei.